la strada che porta al tuo cuore. Ci sono fiori per te, basta coglierli dopo il tramonto, prima che la notte li porti con sé. Tu segui il profumo del vento, arriverai ai confini del mondo, qui troverai quello che cerchi da tempo e non avrai più bisogno del pianto. E le stelle birichine ballano per te, mentre galassie di lucciole infinite brillano dentro di te. Nella strada che porta al tuo cuore, tante favole da raccontare, rose gialle in mezzo ai boschi del mare, piume d'oro, girasoli di sole e le stelle birichine ballano per te, mentre galassie di lucciole infinite brillano dentro di te. Menestrelli che seguono bande nella piazza di un paese che splende, sembra un sogno in un sogno, ma è acqua che disseta l'occhio e la bocca. E le stelle birichine ballano per te, mentre galassie di lucciole infinite brillano dentro di te. E le stelle birichine ballano per te, mentre galassie di lucciole infinite brillano dentro di te.